Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vorrei sottolineare il mio disagio per la paradossale situazione in cui ci troviamo. A causa della par condicio e del pasticcio delle liste, non si è più a conoscenza di ciò che le varie liste propongono. Mi piacerebbe che si tornasse a parlare dei contenuti, delle cose reali e delle necessità della gente, sperando sempre che i vari interventi, sia da una parte che dall'altra, non si limitino ad accusare la gestione della politica di chi è attualmente al governo delle varie regioni o di chi si trova all'opposizione. Massimo, Torino. Egregio direttore, scrivo in riferimento al tormentone dell'esclusione e riammissione delle liste PDL in Lazio e Lombardia. Da simpatizzante moderato e spesso critico della sinistra, non posso non constatare come l'attuale dirigenza del PD si sia fatta sfuggire l'ennesima occasione per sfruttare a proprio favore la situazione politica creatasi. Dal momento che era oggettivamente impossibile escludere il primo partito d'Italia dalle elezioni e che se per caso ciò fosse successo la destra avrebbe avuto gioco facile nel rinfacciare all'opposizione di non voler rispettare la volontà popolare, mi chiedo perché Bersani e il suo gruppo dirigente non abbiano voluto giocare d'anticipo sparigliando le carte in gioco. Avrebbe potuto dare il proprio appoggio politico alla riammissione del PDL, mettendo all'angolo l'avversario politico e incassando un inaspettato, oltre che a buon mercato, apprezzamento politico. Sarà, ma forse è troppo chiedere a questi leader il coraggio di prendere decisioni coraggiose, che uniscono lungimiranza e rispetto dell'avversario ad una certa dose di calcolo politico. Nicola. Anche quest'anno registreremo l'ennesima fasulla campagna elettorale. La politica, che avrebbe tutto l'interesse a confrontarsi umilmente con la società sulle problematiche locali, consuma l'unico rito di cui sembra ormai capace, la gazzarra ideologica. E tanto peggio per chi vorrebbe parlare di sanità, scuola, trasporti, ambiente, urbanistica. Avremo invece diritto al solito scambio di accuse, denunce di complotto, richieste di impeachment, appelli alla piazza e quant'altro. Non illudiamoci, non se ne sarebbe parlato comunque. È sotto gli occhi di tutti che il sistema elettorale regionale dei listini bloccati non fa che trasferire la competizione ideologica fra poli a un livello locale, a danno del confronto sui temi. D'altronde, il confronto fra candidati è un desaparecido del panorama radiotelevisivo. Né i giornali hanno reale interesse a battere una gran cassa diversa da quella che fa loro vendere più copie. È una politica interessata solo ai meccanismi che regolano l'espressione del voto e che non tiene in alcun riguardo il fenomeno fondamentale della formazione dell'opinione pubblica. Una politica che, a mio parere, andrebbe guarita dalla sua arrogante autoreferenzialità con massicce dosi di astensionismo. Pietro, Pavia. Carissimo direttore, buongiorno. Mi chiamo Daniele, ho 33 anni e faccio parte di quella parte d'Italia che lavora, ha un mutuo, paga le bollette, fa la spesa al supermercato e paga le tasse fino all'ultimo centesimo. Sono tra quelli che quando prendono una multa per divieto di sosta vanno alla posta e pagano. Sono di quelli che quando il semaforo è rosso si fermano. Sono tra quelli che a fine mese fanno i conti e vedono quanto rimane da spendere in divertimenti. Sono tra quelli che pensa ancora che prima o poi le persone disoneste prenderanno legnate nei denti. Sono tra quelli che pensano che se c'è una legge, questa deve essere rispettata. Sono tra quelli che pensano che quando c'è un colpevole, questo deve pagare. Sono stanco, davvero stanco e nauseato di vedere come gira questa nostra, o meglio, loro Italia. Colpevoli che invece di finire in galera vanno ai talk show e scrivono libri. Politici che un giorno sono politici e il giorno dopo sono in TV. Presentatori che un giorno sono presentatori e il giorno dopo sono politici. Leggi ad hoc per sanare l'errore di questo e favorire l'altro. Sono stanco e nauseato. Le dico una cosa, signor direttore. Io, da persona che ha quasi sempre rispettato la legge e quando non lo ha fatto ha saldato il proprio conto in silenzio, senza chiedere sconti, senza attribuire la colpa a qualche altro, assumendosi le responsabilità, oggi, in questo paese, con questa classe politica, questa totale indifferenza da parte di tutti quanti verso le continue e sistematiche violazioni della legge, da parte di chi per primo dovrebbe dare il buon esempio, mi sento totalmente legittimato a fare ciò che voglio. E non mi si dica di avere buon senso, perché la pazienza ha un limite. Tutte le persone oneste dovrebbero rendersi conto che il tempo del buon senso è finito. Il weekend delle votazioni io tutto farò meno che andare a votare, e oggi non accetto neanche più che mi si venga a dire che non andare a votare è sbagliato, perché se il 98% degli italiani se ne andasse al mare invece di andare alle urne, forse, in modo pacifico, quei signori capirebbero che è arrivata l'ora di tirarsi da parte. Daniele. Caro Daniele, posso capire la sua protesta. Questa classe dirigente sembra proprio cercare tutti i mezzi per far passare ai cittadini l'interesse per la politica. Ma non bisogna rispondere con la stessa moneta. Il fatto che ci sia qualcuno, anche ad alti livelli, che non rispetta le leggi non ci autorizza per nulla a fare altrettanto. Il tempo del buonsenso non può e non deve mai finire se si ha a cuore la democrazia e la partecipazione alla cosa pubblica. Se le persone oneste fanno un passo indietro, vuol dire che lasciano spazio e iniziativa a chi onesto non è. Per questo, rinunciare a partecipare al voto vuol dire aumentare i problemi, più che contribuire a risolverli. Votare è un diritto, ma è anche un dovere, ed è l'unico modo che abbiamo a disposizione per dire a chi vogliamo noi che è ora di uscire di scena. Andare al mare, cioè non votare, non serve a nulla, ed è un modo per lasciare campo libero alla minoranza, che nella politica ricerca solo il proprio interesse personale. Vorrei intervenire in merito al dibattito ritardi consegne e veicoli incentivati. Lavoro per un concessionario, una delle realtà più importanti del Nord Italia, e sono il responsabile della logistica. Prima di tutto vorrei precisare che l'incentivo governativo previsto nel 2009 poteva arrivare fino ad un massimo di 6.500 euro. Per quanto riguarda i ritardi di consegna, nella stramaggioranza dei casi non è un problema del concessionario, ma delle case costruttrici che non riescono ad evadere gli ordini acquisiti nell'ultimo trimestre del 2009. Il mercato ha registrato un boom di ordini, circa più 30% rispetto allo stesso periodo del 2008. Le riduzioni di personale effettuate nel corso della recessione hanno messo in grosse difficoltà i produttori. I ritardi di produzione sono legati ad alcuni modelli, in particolare quelli prodotti all'estero con piattaforme comuni ad altri marchi. Gli stabilimenti ricevono ordini da più case costruttrici, che si sommano tra loro. Inoltre, le case costruttrici spesso rallentano le produzioni nella prima decade del mese, per poi aumentarla nell'ultima settimana, in modo da poter fatturare il prodotto e gestire le casse integrazioni a rotazione. Il mio consiglio è quello di procedere all'immatricolazione del veicolo non appena il concessionario comunica il numero di telaio, senza aspettare l'arrivo fisico del veicolo, che mediamente avviene dopo 7-10 giorni, ai quali devono essere poi sommati i giorni necessari per i controlli di messa a punto da parte del concessionario. Ricordo inoltre che le concessionarie, al contrario delle case costruttrici, non usufruiscono di aiuti statali e la gestione della flessibilità di lavoro che vive il mercato è davvero una complicanza notevole. Basta ricordare che nei primi mesi dell'anno si è registrata una flessione del 40% rispetto allo stesso periodo del 2009. Roberto. Gentile direttore, vorrei con questa breve lettera ricordare quello che più manca in Italia, la meritocrazia. Se in Italia ne circolasse di più, sappiamo tutti quali sarebbero gli enormi benefici. Meno casi di mala sanità, università e formazione professionale meno autoreferenziali e più utili al sistema paese, pubbliche amministrazioni più efficienti per i cittadini e le imprese, e via dicendo. In un paese dove contasse di più la meritocrazia, anche i ragazzi che frequentano la scuola sarebbero più motivati ad accrescere la loro cultura, nella prospettiva di un futuro ingresso meritocratico nel mondo del lavoro e non clientelare. L'Italia, per fare un paragone, è diventata come una palude, dove l'acqua è sempre la stessa e scarseggiano davvero troppo le correnti di acqua fresca e pulita. In una palude l'acqua è putrida. Cordiali saluti, Renzo. Sembra strano come in questo periodo di assurda limitazione di discussione politica, proprio nel momento in cui ce ne sarebbe assoluta necessità, le persone più libere nell'espressione siamo proprio noi cittadini. Ascolto in televisione i conduttori condizionati dal timore di dire qualcosa di troppo o di toccare argomenti tabù, mentre gli interventi degli ascoltatori alla radio, le nostre lettere o le nostre mail vengono tranquillamente lette e trasmesse senza problemi. Forse è un privilegio, ma più realmente, credo, siamo talmente poco considerati da ritenere così poco rilevanti e condizionanti le nostre parole da non preoccuparsene più di tanto. Giulia. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.